E ci siamo, benvenuti nel confessionale di Grande Sorella in compagnia di due ospiti, anzi tre con regista d'eccezione. Ecco, venite da lontanissimo, vero? Da dove venite? Dalla Sicilia. Uè. E tu come ti chiami? Io Giulia. Giulia, poi abbiamo? Abbiamo Filippo e il papà. Filippo il papà e poi abbiamo in regia? Marianna. Marianna che è là? La mamma, perfetto, sì. Li riconosci? Li confermi, Giulia? Sì. Ti ricordi di loro? Sì. Ok, allora dimmi un pregio e un difetto del papà. Allora, un pregio che è molto protettivo, un difetto che parla troppo. Parla troppo, Tu un po' hai preso da papà però allora. Sì, però io parlo... Tu parli giusta? Sì, Giulia parla giusta. Invece della mamma un pregio e un difetto? Allora... Va bene, solo i difetti, dai. Alla mamma c'ha solo difetti allora? Ok, la mamma ha solo difetti. No. Allora, i pregi della mamma che è molto dolce. Ah, la mamma è dolce? Sì. Ok. Qualche volta, non sempre. Non sempre, qualche volta un pizzico di amarognolo? Sì. E il suo difetto è che è troppo nervosa. Ah, è troppo nervosa? Sì. Si arrabbia facilmente? Sì. Ma allora, è un po' tipico delle mamme del sud, vediamo se è ancora uguale come in passato. E urla ogni tanto? A voi. Urla, eh? Sì. Qualche volta la ciabatta la tira fuori la ciabatta? No, quello no. No. Quello è un po' del passato. A volte la mamma del sud tirava anche la ciabatta, quindi ti sei persa questo particolare, giusto? E papà le cinte. Ah, il papà la cintura, anche mio papà faceva la finta. Sì. Te l'ha fatta la finta della cintura, no? No. Ok, no, papà è buono, bravo. Ok, adesso chiediamo al papà però un pregio e un difetto di Giulia. Pregio. Al microfono, eh? Pregio di Giulia, che è una bambina dolcissima e tenerissima. E bravissima. E studiosissima. Allora, tutto conissima sei, eh? Sì. Giullissima adesso, non ti chiami più Giulia, giullissima. Ok, e il difettissimo? Monellissima. Non è vero. Cos'è? È lenti? È monellissima. Ah, sei monellissima? Perché fai dispetti o... Non è vero, lo tratto sempre bene. Ah, lo tratti sempre bene? Sì. Non lo sgridi mai? No. Non lo metti in castigo? No. Ah, sei buona. È la prima sera che vieni qua, Giulia? Sì. Ti sei divertita? Molto. Sì? Non sei riuscita però a cantarmi una canzone prima, giusto? Sì. Qual era la canzone che volevi cantare? Allora, non la conosco tutta, però sei ritornello. Sei ritornello? Sì. Allora me lo fai al microfono, ritornello? Ok. Dai, vai Giulia. Aspetta. Vetri neri sarai per sempre il mio primo love. Dai, che bella, brava. Aspetta che me la ricordo. Sono rimasta in strada e non ci torno da un po'. Vetri neri stasera ti aspetto in hotel. Quella, bravissima. Dai, un'altra, mixami anche un'altra, vai, con un altro ritornello. Mon amor, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la cena. Ehi, garçon, ho un'idea. Quella, ho visto lei. Che bacia a lui. Che bacia? Lei, che bacia a me. Ah, mon amor, bravissima, facciamo cantare anche una papà. Vai, è stonato o intonato il papà? Potrebbe chiudere per sempre questa radio. Chiude il locale. Ma il papà canta in macchina, canta in bagno, dove canta? In doccia, quando mette le canzoni, quando si fa la barba, canta. Dai, fammi l'imitazione del papà mentre canta, dai. Tanto... Che canzone canti tu? Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima. Parole senza mistero. Non la sappiamo più. No, basta. E una della mamma? Ce n'è una della mamma? Ah, sì, quella. A questa. Dai. No, lei canta una che è stata a Sanremo. Ah. Aspetta che arriva la mamma al microfono. Dai che la sentiamo. Vai. Canta. Ci siamo, vai. A questa. Mi fai bene. Tocco, mi trattiene il bicchiere, mi fai male, vuoi godere, se mi vedi in un angolo ore piene, come un, come, come un mare, come un lago, improvvisa che non ricordo. Dovrei vederlo davanti. È andata bene, Giulia, è promosse? Sì. Che voto gli diamo? Per te sì o no? Allora, per me sì. Voto la mamma? La sufficienza. 9 alla mamma, e al papà? Al papà gli do 9 pure. Tutte e due 9? Sì. Mi piace. E voto a Giulia invece, ovviamente? 10. Allora, è così. Non sei di parte, vero Giulia? No, cioè sei neutra. Cioè, ecco, il papà intanto si sta sciogliendo come fosse neve al sole. Ecco, come... Quindi, vista l'intensità e il calore che qua fa più caldo che in Sicilia praticamente, in questo momento, prima che si squagli il papà e la mamma, è meglio che finiamo l'intervista così, okay, va bene? Vuoi salutare i tuoi amici, quelli che conosci? Ok, che posso dire i nomi? Cioè, tutti? No, quanti tutti. Sono? Qualcuno? Due o tre. Due o tre, dai che... Allora, saluto Gaia Barrasso e Chiara Maria Maffè. Aspetta, Gaia chi è? Tua amica? È una mia amica, sono tutte le mie compagne di classe. Ah, tutte le compagne di classe. Gaia. Gaia, Chiara e... saluto. Raelle, che... del Cameron. Ah, va bene. Salutiamo anche la Sicilia, grande terra, tutti a mangiare le brioche con le granite, va bene? Ok, un saluto da papà. Ciao a tutti e grazie per questa bellissima serata. Ciao da Marianna, grazie di tutto. Ciao da Giulia. Giulia, ciao a tutti, ciao. Ciao.